Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non sempre, cari gastronauti. Ebbene, siamo al Vinitaly, siamo tra bicchieri, calici, spumanti, olio, insomma un po' di tutto. Ebbene, oggi parleremo del futuro del vino. Il futuro del vino inteso come consumo, come evoluzione del gusto. Cosa succederà dai tappi? Avremo ancora tappi di sughero oppure avremo tappi a vite oppure tappi sintetici? Chissà. Chissà cosa ci aspetta dal futuro, soprattutto per quanto riguarda i prezzi. Allora io vi do subito il numero di telefono, se volete intervenire, e fatelo numerosi, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ebbene, come dicevo, discuteremo un po' di che cosa sta succedendo. Magari useremo meno la parola crisi, secondo me sarà meglio metterla per il momento, mettiamola via e parliamo di cosa succede sul mercato, perché diciamo le indicazioni sono alquanto contrastanti. Discuteremo di questo con moltissimi produttori che sono qui presenti e con noi cominciamo con due produttori, Gianmarco Moratti, buongiorno. Buongiorno. Che è quasi un debuttante, mentre abbiamo un decano che è uno dei santoni del vino italiano, che è Giorgio Grai. Chissà, magari si arrabbierà che l'ho definito santone. Allora io voglio cominciare da Gianmarco Moratti, che sicuramente con un'altra sua attività importante, così ha uno sguardo internazionale. E volevo chiedere appunto i mercati del vino. I mercati del vino stanno reagendo oppure diciamo che questo momento sta colpendo i consumi, colpisce anche profondamente il vino? Io non sono a corrente di nessun mercato che in questo momento reagisca, neanche quello dell'arte, neanche quello, sì, forse quello dell'oro, ma gli altri mercati per forza risentono di questa durissima crisi, che è la più grande dalla fine della guerra, e certamente ci saranno dei cambiamenti anche nel mondo del vino. Chi ha investito molto in questo periodo, si è indebitato pesantemente, probabilmente avrà dei grossi problemi, dovrà ridimensionarsi. Ma io dico sempre che questa crisi forse porterà per la prima volta a una grossa concentrazione dei produttori di vino, che quindi molti produttori marginali purtroppo saranno espulsi dal mercato. L'Italia ha una situazione di polverizzazione delle aziende. E lei cosa ne pensa? Penso che è logica una considerazione di questo tipo, però gli italiani sono gente molto strana, molto creativa, è una delle nazioni in Europa dove nascono più aziende durante l'anno, e qualche nuovo personaggio che riparte con idee nuove a fare qualcosa di nuovo c'è sempre. Quindi in Italia, diciamo, questo tipo di frammentazione, che io considero un po' anche la nostra forza, ci sarà sempre. Sentirete molta confusione in sottofondo, purtroppo siamo in uno stand e quindi ci sono degustazioni o d'altro, quindi sentirete anche voci che niente hanno a che fare con quello di cui stiamo discutendo. Ma ora passiamo, come ho detto prima, a un decano del Vinitaly. Lui forse di crisi ne ha viste tante, ma Giorgio, questa crisi sarà più pesante, influirà molto sui consumi? Ma ribadisco, come tu hai già detto, io di crisi ne ho viste molte, ma ho sempre visto che siamo usciti in bellezza. Confermo che la polverizzazione, e confermo che negli ultimi periodi fare il vino è diventato un fatto di moda, e ci sono stati moltissimi che per un fatto di ambizione personale hanno creato cantine, hanno creato etichette nuove, hanno creato invenzioni nuove che tutto sommato non ci appartengono, non appartengono al mondo del vino, e questi probabilmente non avranno terreno facile. Non credo molto alla crisi del vino, perché tutto sommato i consumi si sposteranno da un ambiente all'altro, ma il vino ha sempre partecipato alla storia dell'umanità, ha sempre partecipato alle grandi gioie, ai grandi dolori, e continuerà ad esserci. Dovremmo cercare di fare una cosa, io credo, di portare sul mercato dei grandi vini a giusti prezzi, quindi dovremmo non più sciupare, dovremmo non più millantare grandi cantine, dovremmo fare grandi prodotti, e quindi con il ottenere il massimo con il minimo per accontentare la clientela. Bene, io ricordo il numero da chiamare, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Voglio arrivare un po' ai prezzi, Gianmarco Moratti, lei cosa pensa dei prezzi di mercato di molti vini? Forse non sia un po' esagerato? Se devo essere sincero, si è molto esagerato, non un po'. Molti vini avevano dei prezzi che veramente non avevano alcuna scusante, né nei costi né nella qualità del prodotto. Certamente si avverrà un grosso ridimensionamento in questo campo, e chi è riuscito a produrre bene senza esagerare nel prezzo verrà premiato. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Antonio da Cremona. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno dottor Paolini. Sì, leggevo ieri sulla stampa giustamente di come il vino di qualità si stia affermando rispetto al vino quello così da tavola normale. Ecco, finalmente, finalmente. Pronto? Ho detto finalmente, Antonio, che il vino di qualità si sta affermando. Sì, mi scusi, così brevemente, siccome vedo nei wine bar, eccetera, no? Quanto incide la qualità e quanto l'esibizionismo, la non conoscenza, cioè l'esibizionismo nel senso che uno valigia un calice magari alto, mezzo metro. Bene. Questo era una delle cose. Grazie del suo interrogativo. Vedo che arrivano in massa i nostri radioascoltatori. Giustiniano da Milano, buongiorno Giustiniano. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io lavoro per una società che si chiama Edo a Milano e accompagniamo le aziende a fare business in India. Sono un appassionato di vini. Sono concordo e assolutamente d'accordo sul fatto che la qualità italiana è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Concordo anche che ci sono persone che sono messe a fare il vino, ma non ne compete il fare questo prodotto fantastico. La domanda che volevo fare è: andando in India tutti i mesi, sono andato a visitare Vinitaly, mi sono reso conto come non ci sia da parte di chi produce vino in Italia una grandissima attenzione ad andare in quel mercato dove la domanda è straordinaria e l'offerta è scarsissima. Quindi noi abbiamo un prodotto di qualità, siamo non meno bravi dei francesi. Siamo bravissimi a fare un prodotto straordinario, ma perché non raccontiamo quello che sappiamo fare fuori dal mercato italiano? Cioè, la cosa che mi ha stupito è una domanda straordinaria verso un prodotto straordinario e i produttori italiani che hanno paura e vanno a cercarsi chissà delle robe quando c'è un mercato che non lo sa. Giustiniano, ho capito benissimo la sua domanda, la rivolgerò ai nostri ospiti. Sentiamo anche Marco da Massa. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno dottor Paolini. Si tratta di questo, io sono piemontese di origine e trovo strano che ultimamente ci sia questo osanna continuo per il Brunello di Montalcino, ma il Barolo ce lo siamo dimenticati? Domanda, la giro a lei, grazie, buongiorno. Il gastronauta. Sine qua non sempre, cari gastronauti. Bene, sono contento che state telefonando in massa. Lo ripeto, 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi SMS. Buongiorno Tullio da Verona, buongiorno. Tullio da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Paolini. Io volevo sottolineare questo. Vado sempre fuori a mangiare a mezzogiorno per lavoro. E a un certo punto chiedo un bicchiere di vino buono e non hanno mai una bottiglia buona da aprirmi, da va bene farmi bere un bicchiere particolare, e hanno sempre quel vino da vaselle e quindi si parla tanto. Ma dove va lei a mangiare, Tullio dove va a mangiare, vero? Ma mi scusi, per dire che ultimamente sono andato a San Benedetto di Lugana, va bene, e lì ho chiesto un bicchiere di vino buono almeno di Lugana, invece mi hanno detto no, in Lugana deve prendere una bottiglia, se no a un certo punto mi hanno dato un bicchiere di Custoza, insomma, che mi ha fatto un po' ridere. Cioè lei vuol dire che non ci sono i vini a calice nei ristoranti dove lei va, insomma, compreso questo che mi ha detto, è così? Lo pagare anche 3 euro, 3 euro e mezzo, ma almeno un bicchiere di vino, ma che sia un bicchiere di vino buono, insomma, ecco. Bene, bene, affronteremo questo argomento durante la trasmissione. Abbiamo con noi ora altri due ospiti, due produttori importanti. Abbiamo con noi Marco Caprai, noto per la sua produzione di Sagrantino, e Lucio Tasca d'Almerita, il noto produttore siciliano di Regaleali. Allora, cominciamo proprio da Lucio Tasca d'Almerita. Un radioascoltatore, importatore di prodotti in India, ci ha telefonato pochi secondi fa lamentando che non arriva vino di qualità in India. Tu cosa ne pensi? Beh, io penso che il mercato indiano intanto sia molto difficile, particolare. Le tasse sono molto alte, il posto è molto lontano, comunque noi ci siamo, quindi cerca i nostri vini, li troverà e sono buoni. Ecco, quali sono i mercati del futuro per il vino italiano? Ma direi che oggi i mercati sono consolidati. Parlare di Cina e India, di cui si parla molto, sarà una cosa molto difficile, nel senso che la Cina non c'è questa mentalità, mentre in India forse abbiamo più possibilità di portare i nostri vini là e di farli conoscere. L'indiano ha tradizioni anche che ha imparato dagli inglesi, per cui l'uso del vino può diventare modale. Marco Caprai, hai sentito questa, diciamo, questa domanda di questo radioascoltatore che lamentava non c'è vino a calice di qualità, ma a me sembra invece che in giro per l'Italia, diciamo, che questa modalità stia prendendo. Tu cosa ne pensi? Sì, intanto buongiorno a tutti. Credo di sì, sono sempre più ristoranti che offrono vino al bicchiere. È chiaro che non tutti i ristoratori utilizzano questo modo di avvicinare e di mantenere i consumi del vino. È importante invece che la ristorazione si faccia carico, è importante anche che i produttori si facciano carico con speciali offerte per i vini al calice. Non sempre si può bere una bottiglia di vino, ma spesso anche non si è da soli, quindi invece un buon bicchiere di vino, si possono assaggiare più vini, diventa anche un modo per confrontarsi, per parlare di territori, in specie dove il vino è di casa, come magari la zona che citava il produttore, che era Lugano. Bene, ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666. Bene, il vino a calice credo che sia abbastanza importante, non so se anche Lucio pensa alla stessa maniera, per incrementare il consumo anche in una situazione in cui sicuramente, diciamo, che la borsa della spesa sta calando. Sì, ma non tanto per incrementare il consumo, ma piuttosto per fare conoscere i vini, e soprattutto se uno vuole bere un bianco con un primo piatto di pesce, poi prendere su una carne un bicchiere di rosso, avere la disponibilità di prendere il vino a bicchiere è un fatto estremamente comodo, almeno questa è la mia abitudine. Se trovo queste possibilità lo faccio volentieri. Ecco, sembra che la tendenza in questo momento sia di bere meno nei locali, anche perché il discorso dell'etilometro sicuramente ha inciso fortemente sui consumi, e sembra che le buone bottiglie si bevano sempre più a casa. Marco, questo porterà qualche cambiamento sul mercato, anche da parte così della distribuzione e della commercializzazione? Beh, questo lancerà ancora di più il ruolo del sommelier, dell'esperto, di chi è capace di consigliare al consumatore la giusta bottiglia con il giusto piatto. Oggi molte catene si stanno attrezzando in questa direzione, ma le stesse enoteche tradizionali hanno in questo un particolare privilegio di averlo sempre fatto, quindi i consumi cambieranno, stanno cambiando anche negli Stati Uniti, la gente va meno al ristorante, però consuma più vino a casa, si consuma comunque anche in periodi di crisi. Quindi sicuramente avremo un consumo diverso, ma lo avremo anche più attento. Bene, sentiamo Luca da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo riallacciarmi al discorso di quel radioascoltatore che ha detto che nei suoi ristoranti non venivano serviti calici dove potevano disgustare i vini. Sì. Io posso dire che io ho 29 anni, posso dire che comunque sia c'è un interessamento maggiore anche da parte dei giovani, anche proprio sulla conoscenza dei vini, e infatti proprio anche come aperitivi e tutto si va proprio alla ricerca dell'interessamento di cercare proprio il vino particolare e tutto, e questo è una cosa che ho visto, un cambiamento che ho visto da 2 o 3 anni a questa parte, proprio anche all'interno giovani, anche 23-24 anni. Bene, grazie Luca. Grazie, ho capito la sua domanda, ma guardi, ho tanti radioascoltatori, Elina, comunque abbiamo capito il significato del suo intervento. Sentiamo Filippo da Roma, buongiorno Filippo. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Senta, io volevo intervenire sui prezzi dei vini, sia in eccesso che in difetto. Nei supermercati si trovano vini in bottiglie da 700 centilitri con prezzi al di sotto dell'euro, 50-60 centesimi, cioè... La domanda che mi pongo, ma c'è del vino in quella bottiglia? Qualcuno controlla? Bene, la mia risposta è no, però magari sicuramente se viene venduto vuol dire che qualche controllo ci sarà, o magari riescono a passare i controlli. Ma guardi, rivolgo questa domanda a Lucio Tasca d'Almerita. Lucio. Non sono fatti i miei vini da 0,50, io credo che sia quasi impossibile produrli, però se c'è qualcuno che li beve e che piacciono, il mercato è libero, ognuno faccia quello che vuole. A proposito di vino, volevo dire una cosa, Davide, che è molto importante, ricollegandomi a un discorso che ha fatto Zaia all'inaugurazione del Vinitaly. E si è schierato per la possibilità di bere due bicchieri di vino a un pasto e non essere fermati da polizia e avere dei guai e dei problemi, appunto, di contravenzione e cose del genere. Io sono dell'idea che assolutamente due bicchieri di vino a un pasto non rendono un signore ubriaco e che può guidare tranquillamente tutto il giorno e farsi anche 500 km in macchina. Questa legge mi pare abbia una forma di integralismo esagerata, volevo soltanto dire questa cosa qui. Beh, l'ho già detto un'altra volta in trasmissione, io sono stato fermato alle 3:30 del primo dell'anno, quindi dopo mezzanotte, dentro una città a 100 metri dall'albergo dove andavo a dormire. Per fortuna sono stato negativo, perché avevo bevuto fino a mezzanotte, quindi avevo, come posso dire, metabolizzato. Però è incredibile, io credo che il discorso dell'etilometro sia importante, però bisognerebbe farlo nell'ingresso delle autostrade e quando si entra nelle strade, non quando uno rientra. Quando uno rientra ormai è finito, per il gusto di ritirare 12-13 patenti credo che sicuramente non ne valga la pena. Ma sentiamo Salvatore della provincia di Lecce, buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io dico che, diciamo, in questo momento c'è bisogno di legare il mondo della produzione al mondo della ricerca. La Puglia lo sta facendo bene, io sono nella zona del Salento, la zona del Negramaro, la zona del Primitivo, l'assessore Russo in questo momento è predicato che è al Vinitaly, e in questo momento c'è bisogno di comunicare meglio il territorio, perché tutti stiamo puntando sul discorso che va bene della qualità del vino, cioè non c'è azienda, anche la più piccola, che oggi fa qualità, ma dobbiamo saper attrarre anche dal punto di vista del territorio, e quindi c'è bisogno di un trasferimento, diciamo, di tecnologie innovative che devono in qualche modo interessare anche il mondo della produzione e i consumatori. Bene, io credo che ormai sia chiaro che quello che conta è il territorio, non è tanto il vitigno. I vitigni sono sicuramente replicabili, il territorio no, ma qui abbiamo un personaggio, appunto, che è Marco Caprai, e il Sagrantino con Montefalco ne ha dato un esempio di comunicazione del territorio, anche con i risultati che ha raccolto, al punto che io parlo sempre del sindaco di Sagrantino e non del sindaco di Montefalco, vero? Ha pagato. Esatto, esatto Davide, ha pagato molto, perché a Montefalco e nella nostra zona, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano, si è creato un distretto del vino che crea occupazione, crea sviluppo, ma coinvolge molti visitatori e li attrae portandoli anche all'interno della catena del consumo del vino di territorio, del vino della nostra zona. Questo è un grande beneficio per le imprese devono prepararsi ad utilizzare il turismo del vino, ad offrire in maniera più chiara la loro produzione e attraverso la produzione attrarre anche nuovi consumatori, che sono i giovani che vanno alla ricerca e alla scoperta di questi nostri piccoli territori e delle nostre grandi ricchezze. Bene, leggo un sms che è indirizzata a Lucio Tasca d'Almerita. Volevo fare i complimenti a Tasca d'Almerita per il grande rapporto di qualità-prezzo del Bianco Regaliali, però faccio un piccolo appunto sulla repentina crescita del prezzo del Rosso del Conte. Beh, il signore forse ha ragione, siamo rimasti uguali col prezzo dei Regaliali, però il Rosso del Conte è più caro, è più complicato e quindi va pagato un po' più caro, se gli piace bene, se no. Bene, io amavo questo Rosso del Conte quando era in Botti Grande e ho ancora il ricordo di quel vino straordinario. Bene, sentiamo Roberto dalla provincia d'Alessandria, buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Ma io volevo fare un appunto sui ristoranti, cioè secondo me esagerano sempre come minimo ricaricando tre volte tanto una bottiglia di vino, quindi uno scappa anche la voglia di bere del vino al ristorante. Ci dovrebbe essere anche una legislazione in cui mettano un tetto massimo di ricarico sul vino, ecco. Io, Roberto, sono d'accordo con lei, però in un'economia di libero mercato questo non si può fare. È il mercato poi che decide se andare in quel ristorante a prendere quella bottiglia. È vero, c'è chi esagera. Io anni fa ho denunciato nel senso di pubblicato un articolo di un noto ristorante di Milano che caricava del 417% esattamente su una bottiglia che io avevo bevuto. Però d'altronde, se poi la gente continua a prendere le bottiglie e andare in quei ristoranti, non c'è niente da fare. Non è che si possa mettere un tetto massimo per legge. Bisognerebbe che ci fosse un accordo tra i ristoratori più o meno di avere un ricarico X sul costo della bottiglia. Bene, io ringrazio Lucia Tasca del Merita e Marco Caprai. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino. Siamo al Vinitaly e abbiamo con noi una serie di esperti, di produttori e di opinion makers. Bene, ho ricevuto moltissimi sms, anzi ricordo chi volesse telefonare, continuare a telefonare 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, dicevo degli sms, praticamente tutti questi sms sono in linea con quanto stiamo discutendo. Per esempio si parla di giovani e abbiamo parlato di etilometro. Ed Elda Felluga, dell'azienda Livio Felluga, mi parlava di una iniziativa dell'Università di Udine, penso. Certamente, in concertazione proprio con il Consorzio Colli Orientali del Friuli, e proprio questa parte, questa campagna proprio di comunicazione contro l'abuso di alcol a favore del vino di qualità. Perché quando si parla di vino di qualità dobbiamo pensare che dentro questo bicchiere, dentro questa bottiglia c'è tutta una storia, c'è cultura, ci sono tradizioni e logicamente ricordiamo sempre, specialmente i giovani, e in questo caso io lo faccio anche come presidentessa del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, che bisogna bere con intelligenza, bisogna bere con la testa, bisogna bere con il cuore. Questa insomma è una filosofia che ci accompagna da sempre. Quindi il vino di qualità sposa sicuramente una comunicazione intelligente, una comunicazione che può arrivare ai giovani non solo come sempre divieti, ma con la cultura e la crescita che bere italiano, bere qualità, come anche l'uso corretto del cibo, fa parte della nostra storia ed è il futuro di questo paese e non solo del nostro paese. Pensiamo alla cultura e alla dieta mediterranea. Ecco, vedo che questo slogan è vino, la scelta trendy e la moderazione. Mi sembra che l'università appunto abbia calcolato quanti bicchieri veramente possono portare alla disgrazia, alla disperazione, insomma. Beh, questi sono studi che l'università continua a fare anche appunto insieme a specialisti, a medici, a persone che in effetti poi questo studio lo portano in maniera molto approfondita e quindi non rimane solo in superficie, non vuole essere solo uno slogan appunto wine in moderation, ma vuole dare soprattutto dei contenuti seri e quindi si parte con una base proprio scientifica. Ecco, volevo invece passare ad altri due produttori in Sicilia, con Salvatore Geraci di Palari e con Francesco Zonin, appunto dell'azienda del gruppo Zonin. E voglio leggere anche a voi un sms, perché secondo me è importante sul prezzo. Mi dice un radioascoltatore: il costo di un'ottima bottiglia deve essere tra 8 e 18 euro, sopra e sotto non va bene, ditelo ai consumatori. Francesco Zonin, cosa ne pensi? Potrei essere d'accordo, ma non sull'8, lo abbasserei. Come non sono d'accordo a vedere bottiglie a un euro, credo che quello sia economicamente insostenibile per la filiera, più volte dimostrato non solo in Italia ma anche in altri paesi del mondo. Certo è che oggi con credo 5 euro oggi il consumatore possa dire con assoluta franchezza di poter comprare una buona bottiglia di vino. Credo che sia la rivoluzione che ha fatto il sistema Italia negli ultimi 20 anni e credo che sia quello che ci sta dando le maggiori soddisfazioni in Italia e nel mondo, riuscire a produrre un vino di qualità ad un prezzo che, ripeto, può già aggirarsi intorno ai 5 euro. Bene, Geraci, tu cosa ne pensi? 8-18? Il concetto di buono, che è molto elastico, cosa vuol dire buono? Mica c'ha una soglia. Dice bene Zonin, con 5 euro si possono trovare dei buoni vini, ma ci sono vini, ma c'è tutta una gradualità sul concetto di buono, no? Che parte dal sufficiente fino ad arrivare all'eccellenza, e probabilmente arrivando all'eccellenza sfori i 18 euro. Zonin stesso produce dei vini da 5 euro, ma produce anche in Sicilia vini che costano molto di più. E se sono tutti e due buoni. È il concetto, bisogna mettersi d'accordo. Un altro SMS mi dice: scandalo metanolo 86 ha fatto aumentare tantissimo le bottiglie in quel periodo. La gente voleva solo vino in bottiglia, però dopo il rapporto vino sfuso, il rapporto vino-bottiglia, vino sfuso, bottiglia non è più tornato a prima dello scandalo. Meno male, Agostino, che non è tornato a prima dello scandalo del metanolo. Credo che sicuramente quello sia un momento sicuramente da dimenticare e da mettere in un angolo. Sentiamo Maurizio da Roma. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buona giornata. Io vorrei dire di suggerire ai ristoratori di servire più il vino al calice, in quanto possiamo bere solo un bicchiere se dobbiamo uscire la sera e stare in modo bene con le leggi, e poi di non caricare troppo, perché sappiamo quanto costano i vini, eh? Dei buoni vini vanno sulle 8 euro, ma non si possono vendere a 40. Il vino sciolto io lo pago 8 euro al ristorante. Allora, se dobbiamo incoraggiare a uscire e a bere, veniteci un po' incontro, no? Io sono uno che mangio due volte al giorno fuori, così è... Allora, senta, Maurizio, anche per noi. Maurizio, mi scusi, ma lei ha parlato di vino sciolto, vuol dire vino sfuso? Vino sciolto, lo paghiamo 8-9 euro. Io sto a Roma, non è che so. Al litro, Riccardo è un po' carino. Spero al litro, non al calice. No, perché le buone bottiglie si pagano, loro li pagano 7-8 euro, non di più. Ma non si possono vendere a 30, ragazzi. Bene, grazie, questa qui è una nota dolente che arriva. Ritengo, anche Angelo da Bari, ritengo che offrire ai clienti dei ristoranti un'ampia scelta di vini al calice sia un ottimo veicolo commerciale e culturale. Ne abbiamo parlato anche prima, però rivolgo a Elda Felluga: il vino a calice può essere una soluzione così a questa contrazione dei consumi? Ma diciamo sicuramente sì, ma non solo come contrazione dei consumi, io lo vedo proprio quello, come ci si dicevamo prima, in effetti è cultura e comunicazione. Io sono una sostenitrice da anni del vino a bicchiere, tant'è vero che nella locanda che tu conosci proprio di fronte all'azienda, noi da anni abbiamo adottato la degustazione dei grandi vini a bicchiere, non solo della Livio Felluga ma anche di tantissimi altri amici produttori, e funziona. Oggi più che mai torna questo messaggio, proprio perché ci troviamo a questa restrizione di consumi dovuti anche all'alcol test, a tutte quelle problematiche legate al consumo dell'alcol. Ma sicuramente io lo vedo assolutamente come un mezzo di comunicazione, è un mezzo di piacere, è un mezzo di informazione che ciascun ristoratore dovrebbe tenere ben presente. Ma io leggo ora un SMS che mi lascia un po' sconcertato. Mi spiace doverlo sottolineare, ma il suo discorso sulle chilometri è altamente disucattivo per i giovani. Ma come? Ho detto che io l'ultimo dell'anno sono stato così sottoposto alle 3:30 del mattino a 100 metri dall'albergo dove andavo a dormire alle chilometro. Cosa ho fatto di diseducativo? Qui è stato detto che il ministro delle politiche agricole ha detto che due bicchieri di vino sicuramente non portano a brezza o d'altro, quindi è un discorso che ha fatto il ministro delle politiche agricole. Io non so, io ritengo che ogni persona abbia un limite, un nostro limite di sopportazione o meno dell'alcol, quindi ci può essere chi con un bicchiere sicuramente non è lucido, ci può essere chi con tre bicchieri non è lucido. È evidente che la legge dovrà porre delle medie su questo, e ben lo faccia, però alcuni provvedimenti di legge che erano stati paventati secondo me sono un po' esagerati. Comunque sentiamo Alessandro da Grosseto. Buongiorno Alessandro. Paolini, buongiorno. Io volevo confermare, comunque complimento alle trasmissioni, l'ascolto spesso e questo è un rito da fare per lei. Dicevo, io confermo il discorso di Zonin, di un vino ottimo sui 5-6 euro. Io dico ottimo perché secondo me nella nostra zona, nel Grossetano, nella Grande Maremma, ci sono dei morellini e li sponsorizzo, tipo il Roggiano della Cantina Sociale, che a 6 euro al negozio è un prodotto eccezionale. È un sangiovese che accompagna un buon convivio familiare. Bene, grazie Alessandro. Sentiamo Antonio della provincia di Bari. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide. Ascolta, io sono un ristoratore di Prani, nella provincia di Bari. Abbiamo da qualche mese diciamo, rinnovato il nostro ristorante, ci siamo proprio trasferiti come location e abbiamo inserito appunto, proprio in una concezione di proporre un servizio nuovo ai clienti, degli erogatori di vino al calice, no? I classici no wine. E devo dire che a parte la diffidenza iniziale del cliente, non abituato magari anche al sud a questo tipo di servizio, devo dire che dopo 3-4 mesi di intenso lavoro, anche conoscitivo del servizio stesso, sta riscuotendo un ottimo successo, specialmente per quanto riguarda quella fascia di imprenditori, di rappresentanti che in settimana comunque danno lavoro ai ristoranti, che purtroppo sia dal punto di vista anche economico, ma anche dal punto di vista della gestione del pranzo, non possono, diciamo, bere una bottiglia intera. Quindi dare la possibilità al cliente di assaggiare un bicchiere di vino, e addirittura ci stiamo spingendo poi a fare dei menù a tema con varie degustazioni di vini diversi, in quanto la bottiglia il cliente ha capito che non viene assolutamente una volta stappata. Grazie Antonio, grazie, perché abbiamo capito benissimo il suo intervento, abbiamo capito del vino al calice, la ringraziamo, continui così, sicuramente è la strada giusta. Un'ultima domanda velocissima la faccio a Francesco Zonin, un radioascoltatore è intervenuto prima, era al Vinitaly e ha detto è un importatore in India, sostiene che il vino italiano di qualità non sia presente in India. L'India ad oggi non è un mercato come noi ce lo immaginiamo. È vero che è un territorio che si sta arricchendo, ma in cui la cultura del vino non è ancora presente. Non è un mercato, secondo noi, almeno secondo Casa Vinicola Zonin, dei prossimi anni in cui guardare con una certa ottimismo, perché è lontano dai consumi, seppur piccoli, della Cina, è molto lontano da paesi come la Russia e il Brasile, per cui teniamolo d'occhio, ma credo che per almeno altri 10 anni non si parlerà come di mercato interessante l'India. 30 secondi a Geraci, abbiamo solo 30 secondi sull'India. Ma io ho avuto delle visite in cantina di sommelier indiani, ma io sono una piccola azienda, quindi come dire, più probabilmente un fatto di interesse, di curiosità, di ricercare la particolarità. Non rappresento probabilmente mercato come si intende comunemente, ma ho avuto delle visite che mi hanno incoraggiato. Arrivano anche gli indiani. Arriverà. Insomma. Il gastronauta. Sine qua non sempre, cari gastronauti, eccoci di nuovo, siamo al Vinitaly, sentite il rumore di sottofondo dei calici che scorrono. Ebbene, abbiamo discusso già di diversi argomenti sul futuro del vino, mercati, prezzi, anche dell'etilometro che è tornato molto frequente, del vino al calice. Bene, appunto abbiamo un sacco di sms, ne voglio leggere uno perché abbiamo parlato molto di vino al calice. Ristoranti giorno fa, località Fossombrone, un quartino di rosso sfuso del quale ho consumato la metà, l'ho pagato 4 euro, un vero scandalo. Complimenti Paolo D'Ancona, mi mandi pure la documentazione come dice. Bene, sentiamo Marco da Venezia, buongiorno Marco. Buongiorno, intanto complimenti per tutto il palinsesto, insomma, veramente un'ottima radio, l'ascolto da circa un anno e mezzo e complimenti. Bene, grazie. Volevo farvi una piccola precisazione. Un po' di tempo fa, per Radio 24, stavate parlando di università e di sprechi universitari e avete citato la facoltà di enologia che conta solamente un iscritto. Anche io sono uno studente di enologia e vi ho anche scritto una mail dicendo che insomma eravamo un po' di più di solamente un iscritto. Ma soprattutto Marco, non so di quale trasmissione, perché ce ne sono tante, quindi magari non parlavano della sua facoltà di enologia, non lo so di che cosa stessero parlando. Comunque mi fa piacere sentire che la sua facoltà di enologia è molto frequentata, quindi credo che questo faccia piacere a tutti. La ringrazio. Bene, abbiamo con noi Maurizio Zanella di Cadel Bosco, abbiamo Gagliardo, grande produttore di Barolo, sempre in giro per il mondo, e abbiamo un responsabile di una ricerca di Sardegna, Sardegna Ricerche, Raimondo Mandis, che si è occupato di tappi, una ricerca che sarà presentata oggi pomeriggio, quindi dei tappi parleremo poi sul futuro dei tappi. Io volevo sentire da Gagliardo, visto che mi diceva prima che torna da un viaggio in 13 paesi, qual è il polso della situazione? Si beve ancora in giro per il mondo? Sì, sì, si beve ancora, si beve ancora. Si beve in modo forse un po' diverso, con maggiore attenzione al costo, si è più attenti al rapporto prezzo-qualità, un aspetto questo che era stato un po' trascurato negli ultimi anni, quindi magari molte etichette erano vendute con facilità per una questione magari di immagine, di marketing, eccetera, eccetera, oggi magari un po' meno. Però dato la cosa confortante è che si beve, la gente continua a bere vino e continua a bere buon vino. Bene, io ho una domanda che vorrei rivolgere, cioè un sms vorrei rivolgere la domanda a Maurizio Zanella. Dice: come per le auto e gli elettrodomestici la produzione del vino è cresciuta troppo rispetto ai consumi. Alla fine resterà chi fa quella qualità al giusto prezzo? Non è cresciuta troppo la produzione, è cresciuta la messa in bottiglia del vino, ma le quantità sono abbastanza stabili se non in discesa. È chiaro, evidente, che più andiamo avanti, soprattutto in un momento contingente soprattutto come questo, il valore reale del prodotto diventa vincente, per cui i fronzoli sono da abolire e bisogna essere più concreti possibile. Bene, chi vuol telefonare ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, Zanella, ma sembra che diciamo questa crisi non tocchi minimamente le bollicine. Le bollicine di qualità, ed è l'unico mondo che conosco, perché l'altro non lo conosco purtroppo, sta vivendo un momento magico, quindi io penso che tocchi le bollicine, perché la zona più importante del mondo ha fatto un passo indietro importante l'anno scorso, dovuto evidentemente alla contingenza di settembre, ottobre, novembre, dicembre, che sono i momenti tra l'altro in cui c'è maggior consumo. In Italia forse ci si è resi conto dell'esistenza di una denominazione in particolare, che è il Franciacorta, che sta dando delle garanzie in termini di qualità estremamente elevate, e forse siamo diventati un po' meno esterofili. Quindi il boom di questa tipologia, ma soprattutto di questa zona, è dovuto, credo, a una serietà e un progetto produttivo che vanta il disciplinare più severo al mondo. Michele della provincia di Modena, buongiorno Michele. Sì, salve, buonasera, complimenti per la trasmissione intanto. Allora, io le volevo porre questa domanda. Mi è capitato di andare in un ristorante e chiedere una bottiglia di Brunello di Montalcino. Mi hanno portato sta bottiglia di vino che io ho pagato quasi 60 euro. Mi è capitato di andare in un discount e vedere quella stessa bottiglia di vino a 9,50 euro. Io credo che sia clamoroso. È sicuro che fosse vera la seconda bottiglia, perché mi sembra veramente così, io devo dire, fuori di ogni logica, cioè 9 euro e mezzo al discount e diceva 60 euro da un'altra. Senta Michele, poi in privato, perché non voglio qui creare delle molte polemiche, mi darà esattamente dove, come, quando, perché questa è veramente una cosa molto interessante, la ringrazio. E io le rispondo che sono incredulo, non so cos'altro risponderle. Volevo chiedere a Mandis, appunto, di Sardegna Ricerche, volevo chiederle: ma il futuro sarà per il sughero o per il tappo vite? Perché mi sembra che il tappo vite stia veramente così imperversando. Spero proprio che sarà per il tappo in sughero, perché è un compagno eccellente per un vino eccellente, quindi tanto più cerchiamo un vino di qualità pur bevendo meno, tanto più cercheremo tappo di sughero. È un materiale naturale, sempre vivo, ha sempre fatto compagnia al vino, non vedo perché troncare questa relazione. Beh, siccome abbiamo due produttori di qualità, io vorrei cominciare da Gagliardo. Gagliardo, lei cosa ne pensa di questi tappi nuovi che stanno emergendo, che per molti sembrano un'esigenza, a cominciare dal vino bianco? Sì, io purtroppo, ahimè, penso che aumenterà sicuramente l'utilizzo di questi nuovi tappi. ci sono realtà nuove, cioè prima dicevate il numero di bottiglie, è aumentato molto il numero di bottiglie, il sughero oggi penso sia bene conservarlo per le grandi bottiglie, ci sono vini che hanno esigenze semplici di chiusura perché non hanno, sono consumati in un anno, eccetera. Quindi io da produttore di Barolo dico lasciateci il buon sughero a noi e voi che potete farne a meno usate alternativi. Zanella, tu cosa ne pensi? Totalmente d'accordo, credo che il sughero debba scomparire dalle bottiglie di vini la cui fruizione è immediata e il sughero vada mantenuto e migliorato con la stagionatura giusta per le bottiglie che lo necessitano, dove noi produttori e anche il consumatore dovrà pagare questo sughero di più perché vogliamo una qualità eccellente, cosa che spesso non accade, dovuta al fatto di un consumo di sughero, a mio avviso, troppo importante su vini che non meritano quel tipo di chiusura. Bene, sentiamo l'ultimo radioascoltatore, poi dobbiamo chiudere. Matteo da Padova, buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Io non sono un intenditore, però volevo un chiarimento da lei o da uno dei suoi interlocutori. Vorrei sapere quanto la presenza dei solfiti nel vino sia considerabile, come dire, un indicatore di cattiva qualità o in alternativa quanto i solfiti possono essere dannosi alla salute, in questo senso, insomma, ecco. Guardi, io le rispondo brevemente perché tempo fa abbiamo fatto una trasmissione su questo argomento e si è finiti quasi alle mani. E allora le posso dire questo, che il vino naturalmente produce solfiti naturalmente che superano il limite previsto dalla legge per l'aggiunta di solfiti, quindi ci sono dei produttori che mettono contiene solfiti e dall'altra parte mettono non contiene aggiunta di solfiti, quindi credo che questa sia la risposta più chiara che le posso dare per dire che cosa succede anche in natura. Bene, abbiamo chiuso, io vi do appuntamento ogni giorno con la pillola delle 18:30. Vi auguro un buon weekend e un saluto dal vostro gastronauta.